morbida. Poi non mi ha creato l'abortante. Sì. Non dio abortante, Edo. Sì, vabbè, ma il problema un po' è che mi copre un pochino a voi, perché sennò a me già non mi fa per niente. Anzi, ti sento e non ti non frutti nulla di chi c'è il fatto di Edo, capito? E scappa. Già Edo. Se lo va, magazzino a frutti. Si è esaurito, non è colpa nostra. Stefano. Ah, quando è buona ritta. E Alice minore, va buono. Santa Dio. Ma poi dai, magari stavo solo facendo questa prova. Quindi abbiamo dato le mantiene, tutto a posto, tutto in regola, vai. Ci sentiamo signori, statemi bene che vado a prendermi una rogettina e poi a nanna a riposo. Ciao Antonio, Luca, Natalino e chiunque fosse in ascolto. Ciao ciao. No, cazzo. Io rimango all'ascolto, sono convidato. Sentiamo. Io vengo a casa, la mangiata, me l'ho ridato, cioè mettermi a letto, ci sono cammini. Ciao, ciao, grazie, sentiamo, eh. Dai, non ti copierà la portante. Tallino. Poi. Certo. Dove sei? Santa Rossola. Lascialo giocare. Abbasso il tuo adesso, abbasso. Scappa, dove sei arrivato? Per andare alla VTV di da Sant'Orso, la sono. Ti dovresti avvicinare un altro po'. Sì, ma vedi, non c'è problema. Adesso non vedo l'ora arrivare a casa. Togli queste scarpe brutte che mi stanno facendo male i piedi. E magna. Mi farò una bella doccia e mi metto a letto. Ma chi sono gribato? Che cazzo? Non me la travagliavo per chi vi sento. Cazzo, Ruggi, te ne va di scia tu. Vabbè dai, tocca sopportarle, come il mio lavoro. Lo so, c'è da lavorare un bel. Vabbè, vabbè, piano piano, si si fa tutto, va. Dalla plastica ce la rifanno i sciuti. E la tua plastica, se sapessi, Luca, cazzo in chi veda muri. Puta, c'è. No, niente, puta non ce n'è, però è contento di mia madre, di mia... toccando il più qua dove stai passando? Ti rendiamo ci vicino di là da bue il bocci la moda stai gitti il bocci la moda stai più bue senti che un anno ci vicino di dindini sta lì in office sulla butti butti sono al livello di casa tua là. Cappa, sei a fondo scala qua, eh. Non grido. Oh, 3 watt dammi. Con 3 watt è logico che arrivo a fondo scala da qua. Cappa. E io lì fortissimo sono. Ti stai imbarrando tutto, Antonio imbarrato. Sì, dai, almeno sale un po' con lo Smith, dai, non fa niente. Mi imbarri lo Smith e ti grido, un cazzo. E la macchina è nuovo. Ah, me lo fai, ma bravo. Marrato. Passa, passa sotto, passa. No, si sta allontanando, dai, sono a casa di un qua, non vedo dove arrivi a casa. Cazzo, i primi giorni ti crepano, se non ci è abituato. Ma vorrai così, cazzo. Piano piano, Natali, ti deve prenderti l'abitudine adesso. Ma io lavori così pesanti, non ne avevo mai fatto. Tutte quelle ore, lavorare su quelle ore di seguito, capito? non si è abituato, un gatto. Cazzo leggero, magari fosse stato leggero. Al comune non fai un cazzo, quelli che fanno il lavoro che faccio io, al comune non fanno niente a confronto a quello che facciamo. Allora vuol dire chi la fa zenitura, chi non mi sono riti, ma giù va tutto. Ah beh, là, piano piano, si prenderà l'abitudine e vivrai una vita da lavoratore, abituale, dai, piano piano, ma anche io quando non ero abituato era un casino per me. Ti fa una cosa lì, beh, ti si tocca, riposi un po' e poi già sei meglio, va? Anch'io. Sto facendo l'amore, dai. all'improvviso mi ha fatto tutto soffocare. E perché? Perché ne si fa all'improvviso, io temo, già lo sai quando fai così. Io lo so, cazzetta appena. Quando è tuo il cane? Ma tu come tocco? Una volta avevo 15 di capo, una pagina. Vieni qua, vieni qua. Si mi pugge tanto, come l'è qua lui? Tu non voglio vedere chiave, chiave. Se ci avete la bomba in campagna, Luca, voglio vedere se ce la fai a prenderlo. È rosso molto veloce, rosso, rosso. C'è rosso, Anton, eh? Non è un problema che fai, c'è anche più piccoli di quelli. Ma quanto corre? Adesso mi rischia. Vabbè, non fuma, non è niente, non fuma, lo vedo. No, no. Beh, birra. Sì, così campa cent'anni. Birra, vino, da beve. Mi piace quello. Calamelle mangia ogni tanto. Tu non hai la diabete. Ah sì, sarà veramente macro mastica. Piglia in guia. Tu mi dico che fa venire la diabete agli animali. Che si deve tutti i giorni allo grido. Che affede, se ti mangi caramelle tutti i giorni, ci dici alle caramelle al giorno ti viene diabete. Non solo, ma diventi pure. Ma diventi viene anche la roba della pena ghiacciata, capito, quando vai al bar. Perché lui ti ha potuto di essere attaccati dal più come la birra che la maggior parte è detto la ghiacciata che ti crepa subito. Birra non ne dico qualche volta così ma poco. Ma beviamo whisky, pompo, whisky, whisky. Whisky già va bene, ha spiegato specialmente. Birra si fa di tanto. Dici che tu molto un po' faccio ne fate un altro. Però la dina tutti. Guarda te ne frega. Dai, quando capita che sono qualche amico, già qualcosa me la bevo pure io, non c'è problema, mi va bene, non è sempre questo, non è il mio forte bene, quando capita già, già sollevo il gomito, non ho più di tanto, capito, cava. Mentre già ci vuole, non sempre ma di tanto. Allegria ogni tanto. Non so se lo fai in queste scale che ho io a salire allegro, anche a scendere, non a salire. Ma non si asci su queste scale. Non è primo che la cura a terra a me. Domani andiamo a ridotti scali qua. Sì, ce ne sono scale alte, due scale alte e alte, però ti sono già stati qui, c'è un casino. Ma che ha detto, quando c'è via che non è abbastanza. Capo, vi siete sovrammodulati, lo vedete tanto? È vero, ho letto, queste scale sono gonfie. Specialmente se c'è la bomba in mano, mi si è calati sopra, mi ha detto la scendi per forza perché c'è la volta che ti tocca. Certo, pure una bomba già è faccia. Oppo, non le fate costruire il tuo, allora non lo sa come lo sono ubriachi. Adesso ci metto la cassa del ticket giù quando uno di questi dice che vedrai. Cosa buoni? La cassa ticket per le prestazioni ci metto. Oh, ho capito, la cassa? Ticket. Che te per le offerte. Ehi, buon cuore. Domani. Ciao, vicino Vulcia. Ah, ti ascolto, non c'è problema. Pompo lo senti? Niente. Tu lo senti a Pompo? Ah, va. A vicino, a tu. Piccolino, piccolino, ma dove? Dove sei lui? Parlate del leone, è la cavola, bu. Dove si trova lui? Non mi tende più. Tu non è che io lo sento più adesso. No, ma l'ho chiamato Pompo, era 5 qua, 5 radio 4. E poi non sento più, chissà dove. Credo sia... a come vicino a Zieri. Allora, si arriva in parte, come fuori tanto. Non ce la fa, questi campetti. Eh esagerai, non cominciamo a siedi. E ha detto vicino, adesso non mi ricordo. Lui! Vicino a Busca! E ti ascolto, dove sei? Non ho capito. Oh, ti sento passo passo adesso, eh. Qua ci sento la negativa, cava. Tanto sentito, vai. Negativo, adesso no. E se abbiamo due antenne, io la vintiso. Scappa, io qua tutto libero. Durante l'altra gambituria, sì. Gara, gara. Però più troppo, tocca accontentarmi. Vieni tu subito, sono in 5 minuti. Aia, gara. Gara, gara. Purtroppo, Luca, tocca accontentarmi così. Vabbè, si accontenta loro, gara. O però mi faccio sentire, Gigi non vulga! La parola è basso, basso. A me non arriva niente. Cappa. Ho sentito poco fa piccolino piccolino in un passaggio, poi zero. Piace di riprendere la discesa. Cappa. Sarà in salita ancora. Cosa, Luca? Sarà in salita ancora. Sicuramente sì. Eia! Sì, a lui, dove sei arrivato? Scusa, poco fa non ho capito. Ah, faccio forte e chiaro, gava. Vai a tu. Ah, vabbè. Odo. Oh, ecco qua. Perché mi rompi le palle? Oh. Cappa, non riesco ancora a sentirlo. Adesso è ancora più alto di prima. Lui, lo senti Antonio? Se non ti ha risposto, vuol dire non ti sente. Ma magari qui abbastanza bene lui, senza problemi, gava. Chi te l'ha fatto? Chi te l'ha calata l'antenna, lui? Io sento, ma non riesco a sentirlo. Aumentando sta il segnale, latte. Io lo sento bene qua, a Puglia. Quando ti arriva? È oscillante, 5-7. Papà, io sento qualche ronzio, ma non... Dove si trova? A Campo Lazzaro. Campo Lazzaro, andi. Mi sembra che sia... Dopo... Come dov'è lui, Campo Lazzaro, di preciso? Cappa, cappa. La salita di Sirico è Bantu. Cappa. Boh, invece ce l'ho un po' negativa questa zona. E che sento questo ronzio, mi ci muove appena lo smitter, però boh, non riesco a tirarlo fuori. Ma qua va benissimo, non c'è problema. Forte e chiaro qua, gava. Gava. Ecco zona. Avanti. Buongiorno, e beh, mangiato avemo. Sì, auguria, ciao te, auguria, e tu mangiato? Al volo ho mangiato tu, Luca. Ai ai, da casa? No, in camion. Ah, panini? Un panino e burro. Panino e una tavoletta di cioccolato. Frutta, porta, ti ha preso, aranci che fanno bene. La verità, un arancio l'ho finito adesso. Quello fa bene, io lo mangio ogni giorno, due, tre, qua, dipende. Uno ci vuole, sennò guai. Adesso fra un po' li do a sentire anche io a Luigino. E dove sei tu, stai? Perché io sto dalla parte sua adesso. Vai, vi incrociate anche. Sì, se lui fa un po' veloce ci incrociamo, perché adesso io passo le gallerie subito. Se lui fa appena veloce lo becco così. Lui lo senti a Stefano? Dio mio! Mi sono me, Stefano. Ciao Stefano, come ti trovi? Prova a vedere se mi arrivi. Buongiorno Luigi! Tra un po' già ci sentiamo un po' meglio, sto venendo dalla zona tua. Non ti ho ascoltato, Stefano. Sta facendo le gallerie adesso lui, Stefano. Direzione dove? Catanzaro a cosa? A Codrongiano? Florina, però intanto mi fermo al fornitore, quindi niente di strano che arriva verso di me lui. Seria, c'è il formale da Brisci, Gigi. Lui c'è il pacchetto di tutti, no? Che ha detto che l'ha già aggiustato, cioè ma un Dio l'ho bruciato l'apparecchio. Ma non lo senti Antonio? No, Antonio adesso non lo sento. Vai Antonio. Ciao Stefano. No, già ti sento Antonio, vabbè. E scappami, troppo vado a lavorare anch'io. Adesso piano piano mi allontano da voi, di nuovo. Adesso vado incontro a Gigino. Se lui ci accede all'incrociate. Ma Gigino non può accelerare, nemmeno io. Che sembra il rumore di camion che si intende. Così rumoroso è sto camion. Ma con quello possiamo fare più lungo. Per forza, tu c'hai un microfono amplificato. Però esce bene con quell'apparecchio, Stefano, esce un bel bene. Ciao, che apparecchio è? Alan 69. È buono. Cos'è? 40 canali, sì. Più o meno sì, dai. Allora Gigi, mettilo un'altra marcia e stacca il tachigrafo. Poi intendi, allucinante lui, strano però, Tu ti ascolta a bomba, Stefano, compri che lo senti bene. Lo sto sentendo, Sentito, magari riesci a operare. No, ancora no, perché sto andando pianino, perché c'è... occhio, c'è la strada, vabbè, non ti toccano a te, un attimo, E Luca, lui è la... Sì, ancora distante, per quanto ascolti forte tu. Ma che ti sta arrivando benissimo lui, capito? Ma è più forte tu di lui. Lo so, quando mi avvicino lì devi mettere anche le mutande, perché si partono anche le lacce con le mutande quando mi avvicino lì a Via l'Italia io. Tanto, ma ormai non le ho mutande. Luigi! Gigino, sta salendo la cosa qua, lo sniffer sta salendo. Gaffa, ho visto. Non voglio andare in galleria, se non si brucia l'antenna lì. Il vulcano. Ma c'è qualcosa sotto, quell'apparato, c'è qualcosa sotto, Aspetta Luigi Vulcano. Campa già. Antonio sono. Chi ha del microfono, c'è una cosa appresso, mi quando schiacci la portante. Forse c'è il microfono troppo alto, tu non lo so. Rumore dell'aria, del finestrino della macchina, c'hai tutto dietro, ce l'hai. Amplificato quel microfono, lui, perché sento i rumori. Quello si assorbe tutto, Errore, il camion, il suo, non è silenzioso come io, è più rumoroso, lo senti, perché il camion suo è di quelli un po' vecchiotti, fa rumore, capito? Il motore, lo senti parecchio in cabina, allora quel microfono è molto sensibile, lo senti, capito? Però non lo disturba più di tanto, Guarda, c'era Antonio che ti stava chiamando lui, vai Antonio. Ciao lui, a me senti lì? Ho piatto dai lui. Negativo, non lo sento Antonio io, no, niente, Antonio è proprio negativo, Io sono la Sisa, lo sai, dai, qua a Campomera. Ehi, andiamo qua, c'è di nuovo, Radio Super. Positivo, positivo. Ma il baracchino gira sempre la stessa maniera, Rugari, come gira in stazione, gira nel camion, positivo, ma la casa tua gira meglio, sarà forse magari perché diciamo che in stazione fissa è diverso, dai. Comunque gira bene anche in camion, dai. Si conferma, lo so che in stazione fissa gira meglio, ma quello l'ho appurato pure io, Fai gaffa. Vai Stefano! Poi c'è dubbio. In galleria modulata si è bruciata l'antenna. Fai col baracchino di Vanna Marchi, Stefano, fai girare il baracchino. prova a chiamare la destra, poi ci sente. Ho detto Luigi Vulcano, se senti qua stazione Mombolo, capo. Mercedes apro rosso con la scritta Luigi in grande che si vede da 3 km distante, capo. Ehi, ah, mi senti? Piatto. Cappa, dove sei arrivato? Piava. Non ti sente, no? Lui lo senti, vai, vai a tu, prova. Senti qua la voce di Bombolino, che po'...